poi spiegami come si raccoglie il sale in mezzo a tempeste di sabbia. Distesa al pozzo, senza più liquido, mi chiudo e appassisco dopo poco. Le ossa risplendono al sole, le rose da un tormento difforme. Non mi guardare, una lama che fa male, non mi seguire, come mi oriento nel niente. Uomini per me, torri di pietra, deboli e senza difesa. Le ossa risplendono al sole, e rose da un tormento di forme. No!